Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Non si tratta di trovare parole ad ogni gara, no? Credo che sicuramente questa qua è la peggior conclusione di un weekend già difficile di suo. Difficile lo sapevamo dopo il Belgio. L'ha mostrato la qualifica di ieri, non finire le gare è la cosa peggiore, soprattutto quando, come con Seb, è stato un problema di affidabilità ad averlo causato. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Una curva adesso, la parabolica, la storia per Pierre Gasly è oggi, incredibilmente con l'Alfa Tauri, Pierre Gasly vince il Gran Premio d'Italia, clamorosa impresa di Pierre Gasly che vince il suo primo Gran Premio della storia in Formula 1 davanti a Carlos Sainz su McLaren, davanti alla Racing Point di Stroll, gara pazza. Sì, sicuramente l'Olanda è al nostro livello, a livello della Germania e dell'Inghilterra, quindi sicuramente sarà una partita differente. L'unico rammarico è che arrivi in questo momento dove sicuramente i ragazzi non sono al 100%, però va bene anche incontrarla adesso. Troppe palle corte da parte di Djokovic, che cede la battuta. Carreño servirà per il set dopo il cambio di campo. Ai ai ai, rischia la squalifica, non respira. Io non mi sono accorto, ha tirato una pallata. Sì, ha tirato una pallata. Norma di regolamento, rischia davvero di essere squalificato per questa partita. Sarebbe clamoroso. Problemi ai fermi per Sebastian Vettel. Era lì a lottare per la terz'ultima posizione con Russell, arrivata la staccata, è andato via dritto, neanche ha provato a girare perché non stava frenando. Classifica Hamilton, Stroll, Gasly, Leclerc. Botto. Leclerc. Sì, sta bene però, sì. Leclerc. Come questa stagione ci renderà più forti, bisogna coglierla così e non dobbiamo comunque cercare di far bene, già dalla prossima gara a Mugello, importantissima per noi, ma una pista con caratteristiche diverse. Credo che sui costruttori finire al meglio è un obiettivo importante, quindi non demordiamo per quel che possiamo fare quest'anno e l'anno prossimo sicuramente è una stagione più importante. Carissimi, non demorde la Ferrari, non deborniamo neanche noi. Eccoci qui, 800 24 00 24, questo è il numero verde per intervenire in diretta. Vi invito a prenotarvi già adesso, siamo in onda fino alle 15, poi 349 238 6666, per sms e whatsapp anche vocali. C'è Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Usciamo da una domenica, carissimo Pier, piena di storie pazzesche, storie di uomini, sì, di sport. Oggi è lunedì che ce ne deve raccontare altre. A proposito, prendete nota, 20:45 in Olanda dobbiamo vincere con la nazionale, altrimenti si complica un po' tutto per la Nations League, ma anche per il futuro sorteggio per i mondiali del 2022. E poi più avanti ancora nella serata ci sarà il nostro Matteo Berrettini, che si giocherà l'accesso ai quarti di finale negli US Open, che ieri hanno vissuto una di queste pazzesche storie di sport e di uomini con la squalifica di Djokovic. Se volete dirci che cosa ne pensate, adesso ne parliamo in maniera approfondita. Pier, ci dai il tuo radio tweet? Sì, che non bisogna mai fare l'errore di identificare i successi dello sport con quelli della vita, della storia di un paese. Insomma, la grande vittoria europea è poco da fare, quasi in default nel 2004, quindi. Però io credo che dal punto di vista, io non sono un appassionato clamoroso di motori e di Formula 1, quello che sta succedendo in Ferrari è qualcosa veramente senza precedenti. Forse da bambino a 7-8 anni mi ricordo un periodo altrettanto amaro. Insomma, è come se il Real Madrid fosse entrato in retrocessione, questo è quello che sta succedendo, o il Barcellona fosse entrato in retrocessione, o fate gli esempi che volete. e sono curioso, anche perché abbiamo i grandi ospiti oggi, di capire i motivi di tutto questo. Allora guarda, giro la tua curiosità e la tua domanda, che poi è la domanda dei milioni di tifosi e appassionati che osservano senza capire, la giro direttamente a Giancarlo Minardi. Ciao Giancarlo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Cosa succede in Ferrari? Cominciamo da altro. Credo che ci sia un po' di confusione, bisogna rimettere a posto tutti i tasselli, bisogna fare un atto di umiltà, dimenticarsi di aver avuto un passato storico con 7 titoli mondiali costruttori e 5 piloti di seguito e andare a trovare dove sono le problematiche. Io mi rifiuto di pensare che la Ferrari sia quella che abbiamo visto in questi ultimi 2 Gran Premi e che non ci siano le persone, se si fa un po' di chiarezza, che siano in grado, non dico di battere la Mercedes, che anche ieri ha dato, al di là degli errori di strategia, una dimostrazione di forza incredibile negli ultimi 25 giri di Hamilton, ma di combattere con le squadre che ieri comunque hanno anche vinto o fatto il podio, e quindi le squadre di Serie B. Purtroppo io non ce l'ho la soluzione, se l'avessi avrei fatto bingo, penso, comunque non sono in grado. Avresti telefonato a Binotto? Certamente sì, ma non ce l'ho la soluzione, purtroppo non ce l'ho. Mi auguro che ce l'abbiano loro sanno dove andare a mettere le mani, loro sanno dove hanno sbagliato e devono mettersi lì, rimboccarsi le maniche, sapendo, e tutti lo devono sapere, che uscire da questa situazione ci vuole tanto tempo. Abbiamo visto squadre vincere dei mondiali, andare in crisi, vedi McLaren, vedi Williams, e stanno rialzando un momentino la testa dopo anni di difficoltà. Per cui dopo la buffata è venuta la Red Bull, poi dopo la Red Bull una grandissima Mercedes, ribadisco, ieri gli ultimi 25 giri Hamilton ha dato 2 secondi al giro ai migliori giri degli altri, quindi che non è bastato, certo. Sì, ma non è bastato, ma da ultimo è arrivato a settimo e ha dimostrato che nelle altre gare girano in scioltezza, girano con un margine incredibile, che in qualsiasi momento, se scatenano la loro forza, ritengo in questo momento che siano imbattibili. Guarda, io non vorrei essere ingeneroso, ma ieri nella seconda parte della gara, eravamo qui in redazione a guardarla anche con Carlo Genta, a un certo punto mi è venuto da dire: è una gara di Formula 2 con dentro uno che corre in Formula 1, che era Hamilton, però partiva ad handicap e quindi si è capito in fretta che non avrebbe potuto poi vincerla. Certo. Quella gara, questo poi ha raccontato una storia meravigliosa di cui adesso parliamo con Giancarlo Minardi per mille motivi. Però fammi fare l'ultima domanda, Pier, a Minardi, e cioè dentro questa lunga traversata nel deserto che attende la Ferrari prima di tornare competitiva, serve anche cambiare il manico? Perché Camille Leri, amministratore delegato, ha detto uno dei problemi è stato il troppo ricambio, dando per scontato che da qui in poi si va avanti così. Beh, certamente in altre occasioni sono stati molto precipitosi e un po' faciloni, visto che poi chi è stato epurato è andato a fare grande e vincere la Mercedes, quindi io direi che prima di arrivare a delle epurazioni è indubbio che ci vuole degli innesti di forze nuove, con certe competenze e conoscenza di certa tecnologia, però prima di fare dei libri nuovi io andrei piano. Ribadisco, secondo me ognuno di loro si deve dimenticare che c'è una camicia rossa e che questo delle volte è deviante, mettersi attorno a un tavolo, ognuno mettere sul tavolo i propri errori e non aver paura che la sedia scappi da di dietro e solo così secondo me si può venirne fuori. Poi bisogna ricostruire un organigramma più vincente, questo è fuori discussione. Sì, è molto italiano, no, Pier, l'idea che e la volontà, l'idea insomma che si debba partire dalle teste che rotolano. Sì, è molto italiano assolutamente, anche se qui la crisi è talmente profonda che è un pensiero che forse anche in altri paesi, in altri continenti, di fronte a un simile fallimento avrebbero in testa. Però ecco, io credo che il concetto della camicia rossa sia un concetto perfetto, e nel senso che poi magari ci si è abituati, oppure magari si ha paura di perdere delle posizioni costituite. Insomma, il tempo è chiaro che in Ferrari, nelle grandi scuderie, è sempre meno, un po' come nelle grandi squadre di calcio, è chiaro che la pressione è nettamente superiore, il peso di un insuccesso è sicuramente superiore a quello di una medio piccola, però a questo punto, visto come si è messa la stagione, questo tempo almeno credo debba essere utilizzato per lavorare per un per un 2021 di riscossa. Qui il problema è che o almeno da, 2022, da quello insomma, che abbiamo imparato sì, certo, a capire in questi mesi. Ecco, questa è infatti una domanda insomma, interessante, cioè non sbagliando più una mossa da adesso, quando è che possiamo ripensare a una Ferrari competitiva per quelli che sono i tempi della Formula 1? Ma io credo che bisogna vedere cosa vuol dire nei gettoni che hanno di modifica dal 2020 al 2021, perché probabilmente la Ferrari si sta concentrando in un grosso cambiamento, fino a che punto gli è possibile farlo per il 2021, se no anche il 2021 ormai è già andato in prescrizione. Il 2022 c'è un regolamento nuovo, c'è delle interpretazioni nuove, indubbiamente si riparte con un computer spento o tecnografo bianco e bisogna rifare un libro nuovo, potrebbe riaprirsi un nuovo ciclo, auguriamoci che questo ciclo si chiami Ferrari. Io non sottovaluterei se rimangono nel gruppo la Mercedes, perché in questo momento c'è un'organizzazione all'interno della fabbrica che è invidiabile, almeno da quello che si percepisce guardando dall'esterno, per cui è pericoloso quando si innescono questi gruppi, è difficile smantellarli, anche perché è difficile, oggi è difficile portare gente nuova in Ferrari. Una volta era il sogno e l'ambizione di tutti arrivare in Ferrari, oggi lo è un po' meno. E quindi non è così facile come per esempio è successo negli anni di Schumacher, quando era l'avvocato Montezemolo è riuscito a portare a casa praticamente una Benetton vincente in gruppo. Ecco, oggi è più difficile fare questo, quindi bisogna mettere serenità e tranquillità all'interno della squadra per poi iniziare quella scalata che col tempo ti permette di tornare al top. Ferrari, la Ferrari ha un potenziale incredibile, quindi non credo che sia impossibile. Intanto la domenica di Monza ci ha regalato anche una meravigliosa domenica tutta italiana, perché poi giustamente noi ci concentriamo sul disastro della Ferrari, ma infatti è un orgoglio, un orgoglio enorme, ed è un orgoglio che secondo me ci deve ci dare sono anche... stati caroselli a Faenza, questo riportano le agenzie. Sì, è vero. Giancarlo, che effetto ti ha fatto quell'inno italiano che suonava ieri sul podio di Monza? Poi c'è quell'altra scena bellissima, quella di Gasly che alla fine si è seduto lì e non voleva andare via perché ha capito insomma che stava vivendo un momento irripetibile. Ma io non so se sia irripetibile, certamente ha fatto ha rivisto tutta la sua vita di questi ultimi due anni, dove è passato dalle stelle alle stalle e è ritornato alle stelle, quindi un Gasly che ha dimostrato di avere un carattere e la tempra per diventare un grande pilota, non so grande quanto, ma si è messo alle spalle, e non è da tutti rincominciare a rimboccarsi le maniche dopo una bocciatura come aveva avuto forse anche un po' prematura lo scorso anno, quindi probabilmente è risieduto, ha fatto una revisione di tutto quello che è stato il suo percorso, e devo dire che anche ieri, al di là delle scelte azzeccate del team, della fortuna, degli errori che ha fatto la Mercedes, che non è che sbagli spesso, ha fatto una gara fantastica e ha gestito da grande campione la rimonta di Sainz, che anche questo non è facile da fare in una Monza soprattutto, quindi è stato bellissimo la partenza con le frecce tricolori e l'arrivo con Bino Nazionale ed è una squadra di Faenza. Ti ha un po' emozionato, sì. Ma indubbiamente ho sudato parecchio gli ultimi giri, perché guardavo i tempi nelle varie fasi T1, T2, T3, vedevo dove guadagnava Sainz e dove riguadagnava lui. Insomma, è stato come vivere su un muretto di box, una gara molto intensa e con un obiettivo che, come hai detto tu, non è facile da ripetere, e per cui farselo scappare sarebbe stato un peccato. Sai, Pier, che ha anche spento il cellulare a un certo punto Giancarlo Minardi, perché l'abbiamo cercato subito dopo la gara, poi Cortese ci ha riscritto e ha detto facciamo, però a quel punto insomma abbiamo preso appuntamento per oggi. Più che spento non riuscivo a finire la telefonata. A digitale. È stata una sorpresa grande questa per me. È stata una sorpresa ed è nel solco, secondo me, proprio del senso dello sport, nel senso che poi lo sport è uno di quei settori della vita dove alla fine il merito prevale su tutto, dove si parte sempre da 0-0, dove l'esempio di ieri è clamoroso, no? Anche con il paradosso doloroso della Ferrari messa così male, però questa cosa ci fa capire per l'ennesima volta la bellezza dello sport. Lo sport sì, tu puoi essere, no? Cioè, un signor nessuno o il re del mondo, ma si parte sempre da 0-0. Questo è un lavoro costruito negli anni attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, quindi insomma è bellissimo da un certo punto di vista, anche se poi ovviamente da italiani la Ferrari così in basso ci fa male, però è un orgoglio enorme ed è la dimostrazione del fatto che si può fare, si fa con il lavoro, è crudelmente bello. Questa domenica è stata crudelmente bella in queste due facce tutte italiane e in queste storie che adesso andiamo avanti a raccontare. Ora fammi salutare Giancarlo Minardi, grazie Giancarlo, alla prossima. Ciao, grazie a voi, un abbraccio. E adesso restiamo dentro la testa dei personaggi di ieri. Il mister è sempre battuto su questo tasto, riportare entusiasmo all'interno del gruppo per poi far sì che arrivi anche al di fuori. Quel trasporto che c'è stato durante l'inno era per far capire quanto sono stati 10 mesi difficili da vivere lontani, ma che ci siamo ritrovati, che siamo pronti a ricominciare. Maldini scambia con il brasiliano, doppio scambio, Maldini destro, bravo, in porta, bravo, torna in vantaggio il Milan con una perla di Daniel Maldini, 2-1. È finita, ha detto questo match è finito, finita la discussione. Djokovic stringe la mano a Carreño, è successo qualcosa di incredibile, Djokovic ha commesso un errore enorme, esce così dallo US Open, immagino che imparerà da questo gesto, quando lo rivedrà si renderà conto dell'errore che ha commesso. Carissimo Pier, io ho voluto unire in un filo rosso di storie di uomini anche l'emozione degli azzurri che sono tornati in campo con la nazionale dopo 10 mesi, non era mai successo nella storia dal dopoguerra, insomma un'assenza così lunga per una nazionale. Daniel Maldini, che ha fatto il suo primo gol a San Siro sotto gli occhi di papà e mamma, e poi quello che ci ha fatto vedere ieri sera Djokovic. Ho convocato un grande milanista e un grande soprattutto appassionato conoscitore di tennis come Paolo Bertolucci. Ciao Paolo. Buongiorno, ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Per aiutarci a seguire questo filo rosso, intanto ci dici che cosa passa per la testa di un fuoriclasse come Djokovic nel fare quello che ha fatto ieri? Ma sai, è un gesto, come dire, un gesto di stizza che viene fatto decine e decine di volte, insomma, nell'arco dell'anno, e abitualmente la palla poi finisce con torcerone di fondo, non succede nulla. Qui la iella pazzesca che ha colpito il giudice di linea, che quindi poi la squalifica era ovvia, insomma ho letto delle robe veramente allucinante, perché sai, in Italia c'è il proibito e c'è il severamente proibito, che non capisco poi cosa cambia. Se una cosa è proibita, perché deve essere severamente proibita? Per qualcuno si poteva passare sopra alla questione della pallata al giudice, di sedia. Questo è una regola, tu passi sopra, cioè strisci i pedonali, lo metti sotto, dici vabbè, ma non l'ho fatto apposta, e quindi allora che problema c'è? Qui c'è da evitare le difese a spasa tratta e gli inutili crocifissioni. L'ha detto lui, ho sbagliato, chiedo scusa, basta, è finito. Ha perso, vabbè, al di là dell'aspetto puramente economico, ha perso proprio come immagine a livello mondiale, ha perso tantissimo, ha perso una grandissima possibilità di avvicinarsi ancora di più come vittore Slam a Nadal e a Federer, quindi credo che lui per primo poi alla fine si è veramente era disperato, disperato chissà di aver commesso una sciocchezza che è stata, come dire, amplificata dalla iella micidiale, perché se ci provi un miliardo di volte non la riprende più nella gola, non la prendi più. Detto questo, molto pericoloso, molto pericoloso quello che è successo. Qualcuno ha anche detto sì, ma non era così veloce, al di là del fatto che una palla scagliata in quella maniera minimo va a tra 80 e 100 km orari, se ti prende nell'occhio è un proiettile, perdi la vista. Su questo c'è poco ma sicuro, e poi è talmente evidente, cioè tu colpisci volontariamente o involontariamente, non cambia niente assolutamente, un giudice di linea, finita la partita, cioè non c'è discussione. No, fine delle discussioni. Apprezzabile secondo me le scuse, perché appunto considerando che c'è una forte componente di sfiga per aver accettato questo destino che è beffardo. Poi anche alla luce ovviamente a me ha colpito per la serenità della chiacchierata in mezzo al campo. Io ho provato a immaginarmi la protesta, adesso non per parlare male del calcio, che voglio dire, però immagini la protesta per un'espulsione in campo, immaginati, basta che ripercorri un qualunque episodio che ti è capitato. Ieri Djokovic ha parlato 10 minuti come se fosse al bar con due che lo stavano buttando fuori. Sì, con le lacrime agli occhi. Ma sicuramente, guarda, io quella cosa lì mi è piaciuta, devo dirti, con l'atteggiamento dopo mi è piaciuto e mi ha fatto anche, adesso ho avuto una parola forte, quasi tenerezza, perché appunto la componente di sfiga c'è stata e stiamo parlando di un atleta straordinario che in questo US Open avrebbe voluto fare, penso, poi Paolo ce lo confermerà, più o meno quello che voleva. Ma voglio chiederti, ultimamente è un po' sfigato, cioè c'è un lato oscuro, nel senso che comunque mi sembra che Djokovic abbia inanellato una serie, penso anche a tutto il discorso del Covid, una serie di situazioni più o meno casuali oppure più o meno dovute a delle sue colpe, e vorrei capire insomma quanta parte di colpa c'è e quanta parte invece semplicemente di fatalità e magari di etichetta che pian piano si sta costruendo non più positiva come qualche tempo fa. Ma c'è un fatto, senza Nadal e senza Federer, come dire, tutti i riflettori sono puntati sul numero uno del mondo che è Djokovic, e su questo non ci piove. Lui ha organizzato questo Adria Tour, anche se diciamo il suo team era assolutamente contrario, però come dire, ha seguito le regole che c'erano vigenti in quel momento in Serbia, in Croazia, in Montenegro. Ha avuto, come dire, anche lì un pizzico di IEL, è stato contagiato. Un po' più prevedibile in quel caso. Quello che secondo me invece doveva, secondo me, evitare in un momento come questo, un giocatore deve essere focus solo esclusivamente sul proprio lavoro e su un impegno pazzesco come questo degli US Open, la nascita di questa nuova, chiamiamola, associazione, eccetera, che sicuramente lo ha distratto, e questo secondo me è un errore che non doveva assolutamente commettere. Lui ha dovuto pensare a giocare e basta. Poi quando, come dire, finisce la carriera o quando nei 6 mesi in cui il circuito è stato fermo, allora lì avrebbe potuto tranquillamente dedicarsi anche a questa associazione. Secondo me troppe cose tutte insieme lo hanno portato a essere meno sereno, lo avevamo visto anche nei match precedenti, è più forte eccetera, però non era perfettamente a posto, poi magari c'era anche un pizzico di problema anche alla spalla eccetera, e tutto questo hanno causato quel nervosismo che poi lo ha portato ad effettuare quel colpo. Sì, a fare l'errore. A proposito di campione in difficoltà, ne abbiamo parlato ieri con Piero Augusto Stagi, Fabio Aru, praticamente licenziato in diretta da Saronni, che ha detto non ha carattere, ha problemi psicologici, non sa reagire alle difficoltà, che sono per un grande campione, quale è stato Fabio Aru, sono una sorta di sentenza lapidaria. Invece volevo sapere da Paolo se sabato sera ha visto Milan-Monza. Ho visto il gol. Hai visto Daniel Maldini? Ho visto Daniel Maldini. Quando io sento già quel nome Maldini, io già mi alzo in piedi. Ti emozioni? Mi alzo in piedi e mi emoziono, perché insomma ho avuto la fortuna di conoscere anche il nonno, diciamo. E poi ho vissuto fianco a fianco come tifo con il grande Paolo, e insomma adesso se viene fuori anche il figlio, come dire, sono nato e morirò con i Maldini, fantastico. Fantastico, no Pier? Che storia meravigliosa. Poi parliamo di un'amichevole di inizio settembre, che significa più o meno di inizio agosto, se fosse questa una stagione normale, quindi non è nemmeno calcio poco, liquido, è calcio effimero. Però conta poco, e devo dire che le assenze per i motivi che tutti sappiamo di Berlusconi, anche di Galliani, dallo stadio hanno anche tolto un po' del fascino, secondo me, perché c'era chiaramente un elemento di ritorno a casa, anche se in realtà poi insomma nel percepito di tanti tifosi del Milan, Berlusconi e Galliani forse non sono neanche mai andati, perché è talmente fresco e talmente vincente il ricordo che insomma non c'è stata cesura, non c'è stata separazione. Però dal punto di vista invece della storia di Maldini, di questa saga meravigliosa, è bellissimo, si rischia la retorica, però anche qui insomma prima sottolineavamo lo sport, che ieri ci ha sorpreso con la festa di Faenza nel delirio negativo della Ferrari, e lo sport è questa cosa qui, è sorprendente, e come molti altri aspetti della vita è anche storia di generazioni, di cose che si tramandano nel tempo. Non è facile nello sport, perché perché chiaramente il DNA non è decisivo, quindi non è che da... No, ma Daniel Maldini ha davanti un Everest da scalare a mani nude, appunto, diciamolo con la massima chiarezza. Sono anche un po' in imbarazzo, nel senso che comunque c'è stare a caricare inevitabilmente, un conto è la felicità sicuramente. Noi ci prendiamo la suggestione di quel nome lì e del fatto che abbia segnato San Siro. Sì, siamo felici, immaginiamo che papà abbia sorriso, che il nonno da qualche parte lassù abbia sorriso, ed è una bellissima storia che parla della bellezza del calcio e della tradizione del calcio. Però poi adesso teniamolo tranquillo questo ragazzo, perché insomma l'esempio sappiamo che può essere molto utile, ma può diventare anche una pressione in più. Ah, sì, classe 2001, grazie Paolo. Grazie a voi. Ciao, grazie ciao, Paolo Bertolucci. 800 24 00 24, Mimmo da Varese, col quale saldiamo il debito di ieri e lo ringraziamo per un'attesa lunga quasi un giorno. Vai io Mimmo. Adesso in questo momento avete fatto proprio per sconta. Io dicevo proprio questo. Io mi sono disaffezionato dal calcio per i privilegi e per tutto. Invece Maldini, logicamente, io ho 75 anni, quindi conosco tutti e due, tutte e tre generazioni, fanno parte del vivaio. Ma quello dovete dire adesso, io perché devo correre? Dio mi ha un pallone con un decisione. Ma l'italianità dove è? Oggi abbiamo l'Atalanta, l'Udinese, un po' la Roma, poi è scomparso tutto, non c'è più niente se voi ci fate caso. Sai Mimmo, questo è un tema che è stato discusso tante volte, quello del fatto che le squadre italiane sono sempre meno italiane, le squadre spagnole sono sempre meno spagnole, inglesi sempre meno inglesi e via. Può non piacere, però è così, prendiamoci quando va in controtendenza quello che c'è di buono. E ad esempio la nazionale che vedremo stasera, ne parliamo dopo la borsa, ci racconta che di talento italiano ce n'è tanto e anche giovane, no Pier? La squadra italiana per definizione gioca stasera e gioca in Olanda, e poi sono d'accordo, però il resto sono cicli, perché l'Inter è sempre stata molto straniera. L'anno scorso ha chiuso con una buona spina dorsale italiana, ad esempio. Ma certo, perché ci sono ad esempio i vice campioni del mondo, ma direi anche i campioni del mondo, perché anche la Francia adesso chiaramente c'è Mbappé che gioca in patria, Paris Saint Germain che ha portato un certo tipo di standing, no? Un certo tipo di dimensione al campionato francese, ma in assoluto i campioni e i vicecampioni del mondo sono i vicecampioni, soprattutto parlo dei croati, che praticamente nel loro campionato non hanno quasi nessuno della nazionale, quindi fa parte secondo me della libertà di circolazione che c'è oggi. Poi non voglio dire che mi piaccia, insomma, mi piace, però che è così, dobbiamo prenderne un vantaggio, credo anche che ci sia un vantaggio ad avere uno zoccolo duro, un gruppo di giocatori italiani che penso per esempio che la Juve degli anni scorsi abbia avuto un vantaggio con i suoi leader italiani in termini proprio di identità, di personalità, il grande Milan, lo spogliatoio, però poi alla fine non contano i passaporti, conta il talento. Sì, alla fine così va il mondo, Pier, ecco, e non solo all'Atalanta, non solo in Italia. Stai lì, c'è la borsa, poi ripartiamo, parliamo della nazionale, c'è anche Antonio da Vicenza. 800 24 00 24, tutti convocati anche su WhatsApp, tutti convocati anche su WhatsApp, lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666, 349 238 6666, tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. È forte, sì, e desiderava vivere serate come quella dell'altra sera. Questo dimostra quanto ognuno di noi che fa parte di questo gruppo ci tenga a fare il proprio lavoro, il proprio compito all'interno di una squadra che non è più una selezione, ma è diventata squadra con il tempo, dopo la non qualificazione al mondiale. È chiaro che quando si affronta una squadra che aspetta tutta una propria metà campo e difende, gioca in contropiede, soprattutto in una situazione come questa dove poi durante la partita, durante la fatica che si fa, c'è meno lucidità, è chiaro che ci può essere un po' più di difficoltà in una partita un po' più aperta dove affronti una squadra che gioca, è chiaro che puoi correre più rischi, però puoi anche avere più possibilità. Stasera è una grande partita, quella di Amsterdam, ore 20:45, Olanda contro Italia, partita da vincere, sottolineo partita da vincere per una serie di ragioni numeriche, di classifica, di prospettive di un torneo che quest'anno non possiamo affrontare come fatto 2 anni fa, anche semplicemente per l'idea che a meno di un anno dall'europeo questa è la prima occasione di trovarsi sulla strada una grande nazionale, e quindi se si vuole dare dimostrazione di essere pronti a fare il salto di qualità bisogna cominciare a lanciare qualche segnale concreto in campo, al di là della striscia di 11 vittorie che è stata interrotta dal pareggio casalingo contro la Bosnia di venerdì sera a Firenze. Carissimo Pier, saluto Alessandro Bocci, inviato del Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Si vive o no ad Amsterdam quest'idea che questa sera sia una partita seria, vera? Ma sì, si vive abbastanza. Gli olandesi mi sembrano abbastanza così contenti di giocare questa partita e convinti di poterla vincere. Poi vedremo sul campo, perché credo che in questo momento non è cominciato neppure il campionato olandese, quindi anche loro immagino hanno giocato una buona partita con la Polonia, ma il rischio che a Mancini ce l'ha anche il CT dell'Olanda di trovare magari un giorno la condizione va bene, un giorno va male, perché ancora la preparazione è scadentissima. A te è piaciuta venerdì la nazionale, Pier? Beh, non particolarmente. Io credo però che oggi secondo me è il test perfetto, perché oggi è un'occasione per dimostrare che c'è un percorso che sta continuando. Hai detto bene tu, insomma, questa competizione va affrontata con maggiore focus rispetto a quello che è successo 2 anni fa, anche se alla fine il poco focus di 2 anni fa era stato, ce lo ricordiamo, utile a costruire i successi immediatamente successivi. Ho in mente proprio il frame della partita contro la Polonia del ritorno, quella in Polonia dove improvvisamente, come in un tappo di champagne, la squadra si liberò e si cominciò a vedere veramente il lavoro di Mancini. Quindi io penso che oggi, non lo so, io mi aspetto una buona prestazione, mi aspetto un passo avanti significativo rispetto alla partita di 3 giorni fa, forse un po' irrazionale come punto di vista, non lo so, e credo che sia una grande partita. Poi insomma anche il fatto di giocare lì in un luogo dove il calcio totale è stato pensato per una squadra che dal punto di vista culturale secondo me negli ultimi 2 anni ha fatto dei grandi passi avanti, e il merito è secondo me abbondantemente del nostro CT, insomma aggiunga un ulteriore fascino alla sfida di stasera. Kenny Zaniolo, Alessandro possono, che questa sera dovrebbero partire entrambi titolari, possono essere titolari anche a giugno nell'europeo? Cioè stiamo provando questa sera qualcosa che si potrebbe vedere anche a giugno? Sì, tra l'altro completo il discorso che hai fatto tu introducendo l'argomento. Se vi andate a vedere il calendario dell'Italia, che più o meno è fatto, vi accorgerete che fino a giugno non ci sono test di alto livello, perché l'anno scorso avevano programmato Germania e Inghilterra, quest'anno sono state sostituite forse anche per ragione di Covid dalle prossime amichevoli con Moldova e Estonia, e quindi la doppia sfida con l'Olanda è l'ultima occasione, e quindi oggi stasera e a ottobre a Milano, o come penso a Firenze, perché se è senza pubblico è inutile andare a Milano. E quindi Mancini secondo me proprio in queste partite deve testare ragazzi che possono vedere, che può vedere, ci può vedere se questi ragazzi sono pronti per questo tipo di partite, che non sono partite come un conto è giocare con Liechtenstein, un conto è giocare con l'Olanda. Quindi credo che anche in questo senso nasca l'idea di vedere stasera Locatelli e Zaniolo, che obiettivamente è già quasi più una certezza, è pronto, ormai sì. Esatto, e forse anche Kelly, ancora bisogna riconoscere che almeno secondo i test di questa mattina è ancora in dubbio. Credo che ci siano ormai solo più 2 dubbi di formazione, che sono il terzino destro fra Di Lorenzo e D'Ambrosio e diciamo il terzo a sinistra nel tridente, che è appunto tra Ken e Insigne. Ma se giocasse Insigne sicuramente Ken entrerà, e quindi per Ken, che ha passato una stagione terribile l'anno scorso quasi sulle orme di Balotelli, è l'occasione di di riscattarsi. Aggiungo un particolare: se vi ricordate bene, Zaniolo e Ken sono stati quelli che hanno affossato in parte, più con i loro comportamenti oltre che con le loro pessime prestazioni, l'Under 21 all'Europeo di un anno fa. Oggi potrebbero, diciamo, vendicarsi, riscattarsi, più che vendicarsi, è giusto, riscattarsi giocando una grande partita con l'Italia. E poi resteremo sempre appesi, credo, da qui a giugno al dualismo, al ballottaggio tra Belotti e Immobile, con l'idea che andremo all'Europeo senza un grande numero 9. Poi in realtà Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro non un secolo fa, ma un mese fa, però è un paradosso. È un po' un paradosso, perché veramente Immobile, se guardiamo i numeri, ma non solo di questa stagione, se guardiamo i numeri degli ultimi 4 anni della Lazio, non ha niente da invidiare a nessuno. Però è vero pure che i gol si contano, non si contano, ma si pensano, un po' come i voti delle elezioni. No, e questa sensazione ce l'hanno in tanti, e io gli auguro ovviamente di dimostrare di poter essere uno che segna anche gol decisivi in partite decisive. E da questo punto di vista credo che anche la Champions League con la Lazio sarà un'occasione, perché chiaramente alzerà molto l'asticella delle partite che lui giocherà. Ma sono d'accordo con Ale, cioè io penso che noi dobbiamo usare la Nations League, le partite con l'Olanda soprattutto, ma anche quelle con la Polonia e con la Bosnia, per allenare la nostra capacità di fare prestazione contro le grandi, perché se c'è un elemento, diciamo, di discussione dietro ai numeri da record della nazionale di Mancini del primo anno e mezzo, è il fatto che abbiamo vinto sì tantissime partite di fila, ma contro avversarie di livello medio-basso. Adesso usiamo la Nations League per far vedere che qualcosa è cambiato. Assolutamente, grazie Alessandro Bocci. Grazie a voi. Ciao, ciao Alessandro, buona ciao. Partita. Antonio da Vicenza, 800-24-0024. Antonio. Sì, buongiorno. Eccoci, buongiorno a te. Buongiorno, vai. Volevo collegarmi a quanto ho detto prima sulla Formula 1 riguardo l'anno Ribis della Ferrari, no? Sì. Vorrei ricordare che l'anno scorso avevamo la Ferrari molto in palla, no? Era vincente con Leclerc soprattutto e con Vettel, no? E la Mercedes era in sofferenza. Stranamente la Mercedes ha detto che la potenza del motore Ferrari era alquanto. E hanno messo praticamente i commissari a piombare il motore a Ferrari, di conseguenza abbiamo perso potenza, però da lì a poco Red Bull e Mercedes hanno aumentato le loro potenze sui loro motori, stranamente. Quest'anno hanno aumentato la Mercedes di altri 20-25 cavalli in più, suscitando l'ironia da parte della Honda. Come ha fatto a trovare 20-25 cavalli anche quest'anno? Guarda Antonio, dove li abbiano trovati io non lo so, è chiaro che ieri, l'anno scorso, quello che ha fatto la Ferrari evidentemente era borderline, e quindi poi c'è tutta la polemica sul fatto che si sia arrivati alla fine a una soluzione concordata, sicuramente penalizzante per la Ferrari, ma secretata, e quindi non si sanno esattamente i termini. Resta il fatto che quella Ferrari per un paio di mesi è stata vincente, questa fa fatica anche a stare al centro del gruppo, ed è veramente troppo per i nostri cuori di ferraristi. Valentino da Brescia. Buongiorno. Ciao, buongiorno, vai. No, diciamo, anticipate un po' l'ascoltatore di prima. Ma perché non c'è sincerità da parte della Ferrari e dire l'anno scorso abbiamo corso con un motore illegale, che hanno penalizzato perché Raikkonen, essendo secondo con un motore dell'anno scorso, non arrivava un dodicesimo? Perché credo, Valentino, che prima di appiccicarsi addosso l'etichetta di chi ha barato, perché di questo tu stai parlando, una qualunque scuderia, non solo la Ferrari, ci pensi su non una ma mille volte. A maggior ragione in una competizione, in uno sport come la Formula 1, in cui il confine alle volte fra ciò che è lecito, ciò che è accettato e ciò che invece è illecito è un confine molto sottile. Io la vedo così, non è un parere da assoluto competente dal punto di vista tecnico, però prima di appiccicarsi l'etichetta di chi ha barato, insomma, io credo che la Ferrari legittimamente ci pensi in una ma mille volte. Allora Pier, stai lì, ci fermiamo, c'è l'ultimo traffico, poi ci tuffiamo un po' nel calciomercato partendo da una dichiarazione secondo me clamorosa per come è uscita dalle parole del protagonista. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Tutti convocati. parla di difficoltà di un tuo rinnovo con la Lazio, ti ha dato fastidio qualcosa in particolare? Ovvio che ho letto anch'io delle cose sul giornale, cose non vere, cose magari che non sono vere, sia sul fatto di quello che mi hanno offerto loro, sia il fatto delle cifre, niente, perché le cose si fanno in sede opportuna, non sui giornali. Credo di aver portato rispetto giusto alla società, al minimo che loro mi portino rispetto, ma in senso che nelle sedi opportune parlarne. Se questo è l'atteggiamento che hanno, forse magari il rinnovo non è più nella mia testa, adesso se vanno avanti così. Allora, questo era Francesco Acerbi. Caro Pier, io non ho sentito molte volte un giocatore andare giù così su una trattativa. Sì, sono d'accordo, perché sono poche parole ma molto precise, molto pesanti. Immagino che insomma lui ha un contratto lungo, se sbaglio fino ancora al 2023. Insomma, ci sarebbero tutti i margini per, da quello che so c'è anche in atto una ridiscussione, un ritocco verso l'alto dell'ingaggio, che è nella logica delle cose, perché insomma Acerbi è un giocatore che è cresciuto tantissimo e quindi per quella che è il modus vivendi del calciomercato di oggi sicuramente è un giocatore che ha legittima aspirazione ad aumentare il suo stipendio, ma da quello che so la Lazio si sta anche muovendo, probabilmente sono distanti sulle cifre e probabilmente c'è qualcos'altro, insomma, sì, questa ricostruzione, il discorso del nutrizionista, probabilmente anche l'aspetto mediatico, appunto con le cose, con i dettagli della trattativa messi sui giornali. Non è una situazione piacevole, anche se fortunatamente per la Lazio c'è tempo per sistemarla, poi per sistemare tutto. Assolutamente ragionevole, quindi io sono convinto che ci debbano sedere a un tavolo e risolverla, perché così è difficile portarla in fondo. No, ma poi perché Acerbi, guarda, è stato un giocatore di Lazio, l'ho visto spessissimo l'anno scorso, un giocatore decisivo, cioè la forza della Lazio sta in un'intragliatura di squadra molto forte, molto profonda, che parte da Acerbi e arriva Immobile, poi ovviamente col contributo di Milinkovic Savic. Sarebbe un paradosso, blindato Immobile, resta magari Milinkovic Savic e poi rischi di perdere Acerbi. Saluto Emanuele Baiocchini da Sky, ciao Emanuele. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Che succede tra Acerbi e la Lazio? Succede come al solito, balla qualche soldino, nella migliore delle ipotesi un 500.000 euro, perché lui vorrebbe raddoppiare il suo attuale ingaggio, guadagna 1,7 e vorrebbe raddoppiarlo. La Lazio gli offre circa 2,2, 2,3, 2,4, insomma stavano parlando su queste cifre e quindi come diceva anche Pier, legittime ambizioni di guadagnare qualcosina in più e magari qualche telefonata da qualche big club ha fatto un po' tentennare e gli ha fatto fare queste dichiarazioni questi giorni. È un bel tema quello dei rinnovi, abbastanza complessi, a maggior ragione se si sta avvicinando la data di scadenza del contratto. Ad esempio oggi in Spagna scrivono che il Barcellona ha tutt'altro che accantonato Lautaro Martinez, anzi questa è la settimana decisiva. Allora noi siamo un po' allergici alle settimane decisive, no? Perché è da febbraio che è la settimana decisiva ad esempio per Lautaro Martinez al Barcellona. Però lo so, esatto. Allora la accendiamo o no, Emanuele, questa settimana decisiva per Lautaro Martinez, così poi la chiudiamo lì venerdì e non ci pensiamo più, comunque sia andata, Ma non lo so, non so se sarà decisiva, diciamo, non so che loro continuano a spingere, continuano a pressare, tra l'altro sono discorsi che si incrociano anche alla situazione Vidal, che deve liberarsi dal Barcellona per andare all'Inter, quindi il Barcellona dal canto suo continua a provarci, ma con possibilità di spesa che non sono più quelle di un tempo, no? E quindi è anche complicato, anche per questo all'inizio dell'estate il Barcellona aveva frenato molto su questa situazione. Poi è chiaro che se dal Barcellona dovessero uscire tanti giocatori, il Barcellona dovesse risparmiare tanti soldi sul monte ingaggi e incassare qualche soldo anche per quanto riguarda i cartellini, magari Tebas, che è il presidente della Liga Spagnola, sarebbe un po' più morbido rispetto a queste restrizioni che ha fatto sulle tre big, Atletico, Barça e Real Madrid. Sì, però c'è anche la questione tempo, perché insomma adesso si avvicina l'avvio della stagione e si avvicina anche il momento in cui sarà difficile eventualmente reperire un sostituto di Lautaro Martinez. Sai quanti giorni mancano, carissimo Piero, al momento in cui Donnarumma potrà firmare da svincolato un contratto della prossima stagione? No, io so che il tema non ti appassiona. Mi appassiona. 146, ecco, te lo dico io, non ti faccio fare i calcoli. L'ultima volta in cui ne abbiamo parlato. No, ma è lì, ragazzi, poi Baioc lo confermerà o mi smentirà. È chiaro che il Milan un piccolo rischio se l'è preso. No, un grande rischio, altro che piccolo. Sì, però secondo me la filosofia di fondo che il Milan sta mettendo in piedi nella strategia di questo mercato è costruire una squadra competitiva, blindare Ibrahimovic, che al quale non mancavano 146 giorni ma ne mancavano due a un certo punto per poter rinnovare il contratto e poter rimanere al Milan, costruire una squadra di prospettiva, e l'acquisto di Tonali da questo punto di vista è importante. Secondo me c'è una Io continuo a pensare che l'ordine delle priorità andasse, non dico invertito, ma insomma questione Donnarumma meritasse un'attenzione un po' più alta. Emanuele, non so cosa pensi tu o cosa sai. Che il Milan aveva deciso, diciamo, nella gerarchia delle cose da fare, no? Cronologicamente, prima di mettere a posto la situazione Ibrahimovic, cioè poi di concentrarsi nelle tempistiche, di concentrarsi su Donnarumma. Effettivamente il tempo stringe, da quello che so, loro parte Milan, vogliono riprendere il discorso, e questa volta vogliono riprenderlo per chiuderlo. Chiaro che dall'altra parte non ci sia nessuna fretta, perché più si va avanti e più il tempo gioca. Ma nessuna fretta in questo momento significa non volerlo fare, eh. Cioè, siamo in quell'ambito lì. Siamo in quell'ambito lì, ed è chiaro. Perché nessuna fretta si può fare a 2 o 3 anni dalla scadenza. Acerbi può non aver fretta, o la Lazio, per intenderci. Ma Donnarumma fra 146 giorni è libero. È chiaro. Però sai, Donnarumma o viene accontentato in questo momento dove il coltello è totalmente dalla sua parte, oppure dice tutto il bene che voglio al Milan, prenderò altre decisioni, prenderò altre strade. Suarez arriva o no alla Juve? Suarez è un giocatore che la Juve sta trattando, ma lì dipende soprattutto se Suarez si libera dal Barcellona, perché se ottiene lo svincolo del contratto, dal contratto dal Barcellona, allora può mettersi d'accordo con la Juventus. Ci sono delle pratiche burocratiche anche riguardo il passaporto, prendere il passaporto italiano. Insomma, la Juventus sta lavorando per far arrivare Suarez, che credo che in questo momento sia il favorito, no? L'indiziato principale per prendere la maglia numero 9 alla Juventus. Poi ci sono anche Dzeko, Morata, Cavani, però stanno provando con tutte le forze a prendere Suarez, e poi eventualmente valuteranno alternative. Sì, la riflessione, Pierre, è che sono 4 nomi quelli che ha fatto Emanuele Baiocchini, che non sono nomi uguali al di là dell'etichetta attaccanti, anche proprio come tipologia di giocatori, eh? Cioè, cosa sta cercando la Juventus esattamente? Ma infatti questo secondo me è molto interessante, ed è in qualche modo qualcosa che poi capiremo con il passare delle settimane, nel senso che noi non conosciamo Pirlo, al di là di quello che ha fatto di meraviglioso in campo, non abbiamo avuto poi alla fine degli indizi, abbiamo sentito una conferenza stampa e qui sentiamo profili molto diversi per caratteristiche di gioco. Però ripeto, l'idea c'è, io penso che Suarez sia un giocatore che, per quella che è la sua storia, la sua qualità, la sua ferocia agonistica, se la Juve decide di prenderlo è perché c'è un tema tattico molto preciso e va in quella direzione. Poi è chiaro che un giocatore alla Dzeko è un giocatore più facilmente incastrabile, almeno in teoria, con i meccanismi di Cristiano Ronaldo. Invece su Donnarumma voglio dire che è evidente che insomma non sia facile trattare, l'abbiamo visto anche con Ibra, alla fine ha vinto Ibra dal punto di vista della valutazione economica, però è anche vero che oggi, con un Milan così competitivo, così entusiasta dal punto di vista complessivo, anche dal punto di vista mediatico, se vuoi, andarsene per Donnarumma è un po' più difficile, nel senso che veramente forse mai come in questo momento, forse dalla famosa estate dell'acquisto di Bonucci, che sembrava poter portare chissà quali rivoluzioni, si vede un'idea di Milan molto forte, molto profonda, insomma, sì, di un investimento di qualcosa che serve per provare per un ciclo. Milan gli sta costruendo una squadra veramente competitiva attorno. Ciao Pier, a domani. Ciao. Saluto anche, ringrazio Emanuele Baiocchini, ciao, buon lavoro. Ciao, un abbraccio, ciao. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione al posto dell'infortunata Claudia Schiattone, e ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.